gave my love a cherry that had no stone. I gave my love a chicken that had no bones. I gave my love a story that had no end. I give. Sorry. Go Halle Paul Verri Radio Bomba. Buonasera e benvenuti alla 17ª puntata di Fuoco alle Polveri. Ciao a tutti. Ciao Guido. Ciao. Com'è? Abbastanza bene, mi ero preparato io questa. Buonasera e benvenuti alla 17ª puntata, lo so. Perché pensavo tu non arrivassi in tempo e invece sì. E invece ce la feci, non c'era tanto molto traffico bene. 17, sì. Come il numero che devi comporre in Francia per chiamare la pula. Ah, basta, okay. Il 17, capito? Okay. È veloce. Invece che 113. E poi arrivano i poliziotti cattivissimi, che i francesi non scherzano. E ti basta, quindi tu dici 17. 17 è fatto, veloce. E ti picchiano però automaticamente. Sì, tendenzialmente. Se stai nelle balie soprattutto. Sì. Sì. Volevo chiederti, ma da una settimana che me lo chiedo, ho detto vabbè, vado a vedere, perché poi mi è venuto in mente 17 come, le cose portano male. E ho detto vabbè, vado a vedere perché cazzo porta male 17, non lo so. Oppure ho detto no, lo chiedo a Guido, poi glielo chiedo direttamente in puntata. Sì. Ci sta, così poi se sbaglio mi sfotti. No, pure semplicemente tanto non so cosa, non so niente, quindi puoi dire un po' quello che vuoi. Però i nostri ascoltatori sanno tutto, quindi stai attento. Sono molto attento. E diccelo però, perché allora, il motivo per cui il 17 porta. Allora, come sai, non è l'unico numero che porta sfortuna il 17, ma c'è anche il 13. Sì. Però, diciamo, un po' come la giurisprudenza, diciamo, ci dividiamo fra continentale e anglosassone. Gli anglosassoni credono più nel 13 come numero che porta sfortuna, sì. E nel 17. Poi in realtà non è una divisione così netta. Perché 17 porta sfortuna? Allora, ho trovato, diciamo, principalmente tre spiegazioni filologiche barra religiose. Ascolto, diciamo. Sì, sì, certo, non ti preoccupare. Allora, quello più uno dei più accreditati e deriva direttamente, quindi forse un po' più filologico, deriva dall'antica Roma, sì. Ok? Dove fondamentalmente sulla tomba dei morti mettevano vixi, cioè vissi, ossia morto, perché hai vissuto, ora non più, quindi mo sta morto. Vixi però, se lo leggi in lettere, è anche 17, perché è in modo diverso, però dice gli analfabeti, diciamo, comunque ci leggevano 17, da lì il collegamento con il 17 che porta sfortuna. Okay. Poi ci sono altre due spiegazioni, una più religiosa. Se me ci sono dei dubbi in regia, però... No, in verità volevo confermare, perché VXII non li puoi comporre che in 17, se mi viene in mente, certo. No, nei numeri romani, sì, non può essere diversamente. Poi in realtà dovrebbe essere X, cioè prima la X, sì, poi... è proprio perciò, non li puoi mettere diversi. È vero. Esattamente. È buono, mi piace molto questa spiegazione, l'ho scoperta. Sì. Infatti, poi c'è andiamo oltre, teniamo questo. Solo questo. No, ma invece, invece anche l'altra, perché dice praticamente il diluvio universale è venuto il 17. Allora, non lo so perché non è che c'è. Non c'era il calendario gregoriano, per cui non era il 17 febbraio. Però il loro 17. Il loro 17. Diciamo, no, oggi è 17. 17esimo giorno. E quindi dice porta male, perché il diluvio universale butta malissimo. E quindi questo. L'altro 17 invece è legato all'antica Grecia. E qui finiamo, perché sennò poi si esagera. È legato a Pitagora e ai suoi seguaci. Che il 17 sta fra il 16 e il 18, che sono due numeri che rappresentano perfettamente i quadrilateri 4x4 e 3x6. 17 sta nel mezzo e dice quindi male. I pitagorici gli stavano un po' sulle palle. Questa è un'altra spiegazione che ho trovato. Ok. Ok. Bene, perfetto. Ti ho stordito. Mi hai un po' stordito. Se poi c'ho anche tutti i 13, però. No, no, i 13 lasciamo fare. Facciamo alla 113esima puntata di Fuoco alle Polveri. E niente, dai, mandiamo una canzone e poi partiamo a tutta randa perché siamo anche un po' in ritardo e ci abbiamo esatto. voglia. Via. E... This government had an idea and Parliament made it law. Seems like it's illegal to fight for the union anymore. And which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? We set off to join the picket lines, but together we cannot fail. We got stumped by police at the county line. They said, go on, boys, or you'll go into jail. And which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? Well, it's hard to explain to a crying child why her daddy won't go back. So the family suffer, but it hurts me more to hear a scab say, sod you, Jack. And which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? Well, I'm bound to follow my conscience, and I'll do whatever I can. And it'll take much more than a union law to knock the fight out of a working man. And which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? Eccoci. Ci danno anche l'attacco. Sì, perfetto. Stiamo evolvendo veramente. Sì, sì, sì. C'è chi fa così. C'è anche chi fa così, sì. E allora, visto che ci piacciono ricordare le ricorrenze che in Italia, nel mondo, nella nostra città si susseguono, festeggiamenti per le ricorrenze, ci hanno anche un po' rotto i coglioni. Ah, ecco. In questa settimana viene celebrato il 25 a Roma il 60esimo anniversario dei trattati di Roma, che sono i trattati che hanno dato il via all'Unione Europea per sì. come la conosciamo. E di fronte a questo ci sentiamo di far notare che ci saranno diverse manifestazioni a Roma lo stesso giorno. Esatto. Saranno veramente diverse manifestazioni. Tra l'altro anche complessa l'organizzazione, perché fondamentalmente non dovevano essere fatte, nel senso che la questura di Roma, insieme tra l'altro con gli uffici della sicurezza europea, stavano cercando di evitare qualsiasi tipo di manifestazione. Sì, concentramento in città, sono state disegnate, diciamo, sulla mappa Delle zone, zona blu e zona un'altra, non mi ricordo, non rossa, però forse gialla, e in cui fondamentalmente non si può assolutamente accedere. Saranno presenti 27 capi di Stato europei e, insomma, sarà la grande kermesse dell'Europa Unita, che ha portato tutti quei... Insomma, tanti di quei disagi che vediamo anche nella nostra società, sì. E per non essere banali, possiamo subito rilanciare perché in tutto ciò ci saranno diverse iniziative di avvicinamento a questa data in tutta Italia. Certo, in particolar modo a Roma, ma non solo. Per esempio, stasera all'Archivio 68 ci sarà una un'iniziativa sì. In cui si parlerà di Unione Europea, di quello che è, di quello che rappresenta e anche dei, non so, dei modi di dissentire da quel discorso. Certo. Predominante, quello che va avanti ora, no? Tra Europa a due velocità. Esatto, quindi, insomma. Esatto, anche un po' di aggiornamenti su quali sono gli ultimi sviluppi. Infatti, tra l'altro, a questo vertice, che se appunto è una celebrazione, non è proprio un vertice, è una celebrazione che semmai è anche un passo successivo, cioè che l'Europa inizia a festeggiarsi, non sarà presente la Gran Bretagna, l'Inghilterra. Eh no. E quindi, insomma, è anche un'Europa che si trasforma. A me personalmente interessa l'argomento. E niente, stasera c'è questa iniziativa. Archivio 68 alle ore 21, quindi in via Orsini. Perfetto. Organizzata da Eurostop, saranno presenti diversi relatori. E niente, se vi va. Assolutamente, appena finita la trasmissione, pigliate bici, macchina, piedi. E via. E via. Potete anche aspettare un po' dopo la fine della trasmissione, sì. Se non volete aspettarli fuori alla via Orsini. Ma io andrei, sai, poi. Si sta bene in via Orsini, dici. Ah, sì, sì. Senti, ok, questa era una cosa che volevo ricordare e... l'altro giorno è morto Chuck Berry. Ecco, bravo. Me l'hanno detto ieri sera. È peso. Davvero, grande pianto in tutta la comunità di artisti del mondo. Sì, io sono andato subito a cercare di capire negli archivi della mia memoria, che non funziona praticamente mai, vedere se nel Toto Morti qualcuno va in esatto. Silato. Però non mi sa proprio di no. Nessuno, peccato perché era una buona. Era una buona. Un buon cavallo su cui puntare. Era buonissimo cavallo. Niente, dopo questa cosa era un noi non ci scordiamo del Toto Morti, delle vostre morti, esatto, delle vostre liste anche, delle vostre liste. Quindi ecco. A fine anno comunque tireremo le fila e via via che muore qualcuno di interessante. Magari. Sì, vediamo sempre nella nostra lista. Tiriamo le fila di chi tira le cuoia. Bravo. Grazie. Cercavo proprio questo modo nomi. Come le parche. Chissà cosa come sono le parche. No, dai, le parche. Io pensavo, porche parche, pensa che bella bestemmia quelle pagana. Quelle che tessono il filo del destino. Ok, scusate, avete ragione. Sei anche un classicista. Dice, sì. Dice. No, sì. Sì, dice. Di formazione. Alla fine dice. No, avete sentito anche la voce del nostro la amico verità. Nico? Ah, no. Che... Ciao a tutti. Ciao Nico. Ciao, caro. Che era un paio di settimane forse che non era ci vedevamo. Era un paio di settimane che non ci sono stato, ho avuto degli impegni che mi hanno visto, insomma, così Protagonista anche, esatto. Sì, però Sei il protagonista dei tuoi impegni, pensa te come sei fortunato. È meglio di nulla. Adesso sì, finché dura. Dai. Niente. Però sono tornato e viva. Sì. Ci abbiamo forse la sigla della tua bellissima rubrica che... Sigla. Cos'è che ci buttaste per mamma con tanto amore? Dubbi e sicure. La fisarmonica stasera suona per te. Un amore, uno di tanti anni fa, la fisarmonica. E insomma, due pezzi di cuore, due pezzi core, evviva. Evviva, ciao. Ben felice di essere ritornato. So. Viva Fuoco le Polveri, viva cazzo Radio Womba, cioè col suo logo fichissimo. Abbiamo vissuto cose belle negli ultimi giorni. Allora, il pezzo che porto oggi, visto che non ci sono stato per un po' di tempo, mi sono interrogato su veramente che cosa dovrebbe portare questa rubrica, perché dubbi e core. Un momento di riflessione, quindi. Cosa vuol dire proprio pezzo di cuore? Secondo me c'è un è inutile, adesso userò una serie di termini in maniera, cioè, totalmente a sproposito, però vai. Chi vuole capiscere. Insomma, rimando un po' a quella strana connessione, cioè è un modo di interrogarsi sugli effetti, le conseguenze sull'uomo della musica o più che altro della canzone stessa, che però è un po', cioè riguarda tutto il discorso sull'arte, i suoi effetti. Proprio il pezzo di cuore, cos'è? Una cosa che ti ricorda qualcosa, una cosa un po' prustiana, mi chiedo? Oppure una cosa, cioè questo termine bellissimo che è il duende, che è un termine di García Lorca, intende proprio quel sentimento, insomma, di sublime misto a saudagi, sì, che dovrebbe dare il flamenco, quel senso di okay, brivida badibidi, però, inspiegabili. Sì, tutte queste parole che risuonano nel discorso, la sensucht, cose così. Il sensucht? Il sensucht. Il l'interazione giusta. No, infatti. E quindi il pezzo di oggi, cioè i due pezzi di oggi parlano principalmente di canzoni che non si possono ascoltare o che si vogliono ascoltare perché trasportano in un'altra dimensione. Okay. Che spesso, chiaramente, visto che parliamo di musica italiana, cazzo, si parla di amore, quindi certo, o di gente abbandonata dall'amore della vita, oppure... Oppure super innamorata. Oppure super innamorata nell'estasi. Sì, la maggior parte sono persone abbandonate. Però... Sì. Anche quelli super innamorati, ce ne sono diversi. Il primo pezzo, come la fisarmonica, che è per ricordarti un amore come nessuno lo sa. E chi è quello fa, che c'era, la fisarmonica? Morandone. Ah, Morandone, Giannone, mi sembrava. Mani a paletta. Sì, sì, mani a paletta. Il anche qui prendiamo in giro così, ma Morandi, senza uno scopo definitivo. Con affetto, Sì, sì. Che poi paletta, proprio quella accezione, no, mi fa pensare. Sì, anche, quella, anche quell'altra, sì, anche quell'altra, insomma, sfumatura. Sì, quella sfumatura. Insomma, il pezzo che va adesso... Me l'hanno chiesto tanto tempo fa diverse ragazze. Vabbè, mi certo, succede così, mi succede, non lo so, così. Lo so. No, in realtà la dedico grande a Caterina, che è la nostra Caterina, che me l'ha fatta scoprire una canzone bellissima. La sentiamo, una canzone del 34, grande successo, interpretata adesso nella versione che vi faccio sentire, sì, io, da Luciano Taioli, sì, che ti sfido a indovinare di dov'è. Taioli delle tue parti. Ma no, sarà romano, no? Taioli. Ma su che cazzo? Che cazzo ne so io? Ah, anch'io sono un po' basito. Mi fa pensare una cosa un po'. Ce l'ha lasciato un po' gelato. Forse il regista? No. No. No. No. No. No. Ho visto che si avvicina al microfono. Insomma, Violino Zigano. Ok. Violino Zigano, del 34, un pezzone meraviglioso, storia della musica italiana negli USA e dappertutto nel mondo, un pezzone importantissimo. Prego. Grazie. Zigano dall'aria triste appassionata, che fai piangere il tuo violino fra le dita, suona ancora con tutta l'anima zigana, mentre pallido nel silenzio ascolterò questo tango che in una notte innamorata il mio cuore a un altro cuore incatenò. Suona solo per me, o violino zigano, forse pensi anche tu a un amore laggiù, sotto un cielo lontano. È un segreto d'onore a tremar la tua mano, questo tango d'amor fa tremare il mio cuore, o violino zigano. Tu che sogni la dolce terra d'Ungheria, suona ancora con tutta l'anima zigana, voglio piangere come te di nostalgia, nel ricordo di chi il mio cuore abbandonò. Con il canto che tu diffondi per la via, con il vento la mia passione dileguò. Questo tango è d'amore, ma il mio amore lontano suona ancora per te, mentre piango con te, o violino zigano, o violino zigano. Mamma, non son più quel capriccioso ragazzino che sgridavi sempre per il suo fare birichino. Oh mamma, mi ci vuol la fidanzata. Oh mamma, mi ci vuol la fidanzata. Io vorrei quella cosa, vorrei quella cosa tanto cara, deliziosa, che fa il cuore sospiroso. Sì. Cosa sarà mai? Chi lo sa? Ognuno c'ha il suo. Ognuno c'ha il suo, infatti, sì. Bene. Oh mamma. Introduciamo la persona che sta cantando adesso, che è un super, super grande. Tale Natalino Otto. Chi non lo conosce, lo conosca, perché veramente un grande, uno dei primi importatori dello swing in Italia. Al pari di Carosone, che abbiamo sentito prima, che diversi pezzi ha fatto di Natalino Otto, ha reinterpretato ed è stato tanto riusato dai grandi amanti del jazz e dello swing italiano. Okay. È stato uno dei primi a importare, visto che chiaramente è sotto il fascismo, per fare fortuna inizialmente si esibiva sui transatlantici, come abbiamo visto che anche Carosone per fare la gavetta andò in Etiopia, no? Ci ricordiamo? Sì, sì, sì, sì, assolutamente. Sì, sì, sì, sì, ma certo, maestro, sì, maestro. Sì, signore, signore. 22. No, anche lui sui transatlantici, andando in America, cioè i transatlantici che portavano verso l'America del Nord, il Nord America, iniziò a suonare, così conobbe il jazz e lo swing, lo cercò di riportare. Iniziò a stampare dischi in Italia dopo che si era comunque aveva già fatto diversi CD in America con un'etichetta italo-americana di New York, ma in Italia la EIAR, che era l'emittente radiofonica fascista, diciamo nazionale, non lo passava, lo definiva, oddio, tipo orribile antimusica negra, una cosa del genere. Certo. Bellissimo, antimusica negra è veramente bello. cercò comunque, grazie al teatro e a tantissimissimi live, a tante esibizioni, e poi la musica che faceva era questa, quindi era swing, faceva ballare tutti ai tempi, divenne comunque famoso nonostante la televisione. Quando poi arrivarono gli anni 50 e ci fu il secondo dopoguerra, fu uno dei grandi a della portare televisione, della musica italiana dopo, sì, come Claudio Villa. Sì, sì. Però lui era proprio un musicista, compositore, anche cantante, appunto, pianista, e poi è diventato un discografico, produttore negli anni 60, ha fatto l'attore sempre negli anni 50 in quei tanti film di cui si parlava anche le altre volte, dei primi film musicati. Ha spadroneggiato, insomma. Un ganzo. Ha spadroneggiato totalmente, solo che noi non lo conosciamo, perché però tante cose come questa canzone qui, per esempio, la conosciamo tutti. Nel cuore, ma lui è quello che ha fatto "Ho un sassolino nella scarpa", ai, che mi fa tanto tanto male, ai. È quello che ha fatto "Solo me ne vo per la città". Ah, pure. Non ce l'avevi fatta ascoltare? Ah, no, forse... scoperto se non era per due pezzi di cuore sta cosa. Sì. Sì. Natalino 8 era un, è un, davvero un grande. Il pezzo che vi porto adesso è un pezzo un po' misconosciuto di Natalino 8, secondo me è una chicca meravigliosa, un pezzo bellissimo. Sempre sulla, sull'onda di quello che dicevamo prima, della musica che richiama chissà che cosa, che risveglia antiche passioni o antichi ricordi e cose così. Questo pezzo che si chiama No Jazz. Vi invito a un ascolto del testo che è meraviglioso. Cioè, comincia facendo del jazz, comincia con no, non suonare del jazz. Ottimo. Prego, Natalino 8, appunto, no jazz. No, non suonare del jazz, del jazz, del jazz. Ti prego, non fare del jazz. Questa sera, questa sera, no jazz, per favore, ho nel cuore un ricordo d'amore che mi fa soffrire così. No jazz, no jazz, è un tormento. È un rimpianto, sogna l'anima stanca il ritorno di chi mi lasciò. Musica dolce tu, musica mia. Musica dolce del cuore. Questa sera, no jazz, per favore, voglio illudermi ancora di vivere e amare come allora. No jazz, no jazz. Questa sera, questa sera, no jazz, oh jazz, per favore, voglio illudermi ancora di vivere e amar come allora. No jazz, no jazz, no jazz. Insomma, spero vi sia piaciuto, sì. Assolutamente. Un pezzo per me veramente bellissimo, super divertente, grandioso. Insomma, speriamo di aver quantomeno toccato le corde profonde, no? Del cuore dei nostri. Del cuore dei nostri ascoltatori. O dei nostri del cuore. Diciamo una parola a testa, del cuore dei nostri del cuore, esatto, direi. Assolutamente. E niente, viva Foco alle... Cioè, niente. È stato bellissimo. Cioè, penso, viva Foco alle Polveri. A me piace, è una cosa che ascolto, ascolto spesso. Bello, pieno di giovani. Ci sentiamo. Il prossimo lunedì. Viva Radio Wombat. Viva Foco alle Polveri, davvero. Ciao. Grazie, Nico. Ciao, Nico. Dubbi e sicure. Gonna be banana night. Nuovi sottofondi, molto belli. Evviva. Dici, dici. Chi? Nulla. Nulla. No, no, vi davo... Mi davo l'incipit, vi davo il via. Grazie, Andre. Grazie, infatti. Senti... E invece ne siamo fottuti, siamo partiti, vabbè. Dimmi, Haru. No, ti volevo chiedere un po' di cose... Chiedimi e io rispondo. Che è, oh? Vesti strane dalle retrovie. Abbiamo diversi strani, quindi ci distraiamo. Ma volevo chiederti in realtà del film che andiamo a vedere in questa settimana. Esatto. Bel ciclo di iniziative che si chiama Hack Feeling. Vi ricordate, già la settimana scorsa avevamo parlato del primo evento, il primo film, c'era un sacco di gente. Buono. Insomma, comunque c'era abbastanza gente. Ma soprattutto interessata. E soprattutto interessata, sì. Cioè, ho visto un sacco di domande, un sacco di interventi. E poi i due ragazzi, il ragazzo e la ragazza che presentano le proiezioni sono bravi. Veramente preparati e veramente in gamba, oltre che simpatici e belli. Assolutamente. E belli, e belli. Come, belli. Non per niente fanno parte, sono buon partito. Dei bombati. Sono anche dei bombati. Sono dei bombati. Se settimana scorsa abbiamo parlato di Anonymous e anche ridimensionandolo da un certo punto di vista, rivalutando alcune questioni, capendo meglio come, al di là del documentario, abbiamo visto che chiaramente prende degli indirizzi anche un po' non lo so, epici a tratti, no? Sì. E quindi è stato interessante anche per quello, per dare una forma un po' diversa. A questo giro invece parliamo di altri hacker più geograficamente specificati, no? Sì, nemmeno... e anche belli cattivelli, nel senso... Vai, vai. Il film è sarà Zero Days. Zero Days. Zero Days. Che parlerà di questo... cioè, è un documentario che parla di Stuxnet, che è un malware. Esatto, un virus. Che è stato programmato e creato dal governo americano e dal governo israeliano per danneggiare in modo pressoché irreparabile le centrali nucleari iraniane. Esatto. Il fatto è che gli è sfuggita un attimo di mano questa cosa, sì. E dopo aver colpito le centrali nucleari iraniane, questo virus si è riprodotto e moltiplicato in tutto il mondo e ha danneggiato moltissime aziende. Quindi in realtà è interessante questo film, penso, spero. Non l'ho visto, però ne abbiamo già parlato perché... Beh, lo vediamo mercoledì. Sì, esatto, perché è quell'episodio è stato il primo di una pratica che in realtà oggi è molto utilizzata, che è quella dei governi di fare la guerra o comunque portare avanti degli attacchi mirati, politici, su scala internazionale, attraverso l'uso di tecnologie informatiche o comunque soprattutto di appunto quella che viene chiamata pirateria informatica, insomma, cioè, nel senso, no. Sì, diciamo che la cosa divertente di questo Stuxnet di cui tratterà il film è che quest'arma che loro hanno creato, che gli si è ritorta contro, perché per farla funzionare hanno fatto in modo che fosse super riproducibile, cioè si autoriproducesse in continuazione, e quindi qualche furbone ha semplicemente pensato di rigirarla, infettarsi il computer e poi rinfilargliela da dove gli era uscita. Ok. La vendetta. No, e quindi, appunto, insomma, film interessante, ma più che altro continuano le chiacchiere su questi argomenti che sono appunto... contemporanei e molto interessanti, ma soprattutto ci sono delle persone che ne sanno molto più di noi e che ci aiutano a capire certe dinamiche e quello che è successo negli anni precedenti, insomma. Quindi, per cui martedì 22, ossia domani, se in polveriera è mercoledì 22. Sì, perché tu ti confondi con Mar e mannaggia marzo. Ma anche prima, anche prima Mar e marzo, mercoledì 22, ma sia martedì che marzo, tutti i giorni martedì, infatti mi sembrava strano sì. Quantomeno. Quindi mercoledì 22, ore 20 circa. Sì. Dove? In polveriera. Okay. Inizierà prima c'è una piccola presentazione, introduzione, anzi piccola, una giusta presentazione e poi parte il film. Adeguata, sì. Adeguata. Esattamente, non perdetevelo. Ok. Parliamo di quell'area geografica un po' tra Israele e poi andando giù incontriamo la Turchia. Abbiamo parlato spesso dei... Sì, l'ho presa larga. Va bene, l'abbiamo presa larga, però noi volevamo semplicemente... Ma stai cambiando argomento? Sì, sì. Ah, okay. Cioè, cercavo di collegarlo, tendenzialmente. Però, in realtà... Però poi è fallito il collegamento. Pierpenoso, e quindi... Un'altra. Un'altra chance. Allora, mi collegherò a questo. Prova. Praticamente Anita si è tagliata i capelli alla nuova frangia, quindi accanto c'è la Germania, parliamo della Germania. Ah, buono, questa ci piace molto di più. È difficile, frangia. No, no, si era capito. No, allora parliamo dei curdi in Germania, in realtà del rapporto fra Turchia e Germania. Sì, non è che in realtà proprio ne vogliamo parlare. No, volevamo solo fare un accenno. Sì, così. Così en passant. Oh, no. Cosa volevamo dire? Volevamo dire che è successa una cosa particolare, io ci ho riflettuto un po' in questi giorni, che in Germania hanno vietato l'utilizzo e la riproduzione, l'esposizione dei simboli del PKK e di altre, delle altre organizzazioni curde che sono, diciamo, bollate come associazioni o comunque terroristiche in Turchia soprattutto. Esatto. Ma poi in realtà anche sono nelle liste internazionali, quindi essendo la Turchia uno stato riconosciuto, molto riconosciuto, e il Kurdistan no. Quindi diciamo che quelle organizzazioni sono nelle liste delle organizzazioni terroristiche di tutto il mondo. La Germania ha dichiarato che portare quei simboli in una piazza o esporli è illegale, verrà punito. Tutto ciò dopo aver autorizzato l'altro giorno la manifestazione a Monaco, dov'era? Quello prima, sì, a Francoforte. Francoforte, c'è stata in realtà una manifestazione. 30.000 persone. Esatto, molto importante, nel senso che stiamo vivendo un po' un periodo in cui la Turchia ha fatto un... spara e dice siamo tutti nazisti, tendenzialmente. Tra l'altro, ci sono stati due episodi, sia con l'Olanda che con la Germania, in cui... Sì. Però questo è un accenno, a me io volevo parlare in realtà la cosa che mi aveva incuriosito era questa cosa: la Germania ha vietato dei simboli politici in un periodo in cui sembra che invece sia necessario fare l'opposto, non tanto a noi ma dico in generale come politica generale, sia quella di parlare a tutti i costi, poter fare tutto a tutti i costi. Prego. No, sembra un po' un ruolo di poli che vanno a cambiare, cioè fatto. Per esempio gli Stati Uniti appoggiano i combattenti curdi, non il PKK. Esatto. E la stessa Turchia di Erdogan vorrebbe in realtà voleva essere un po' il faro del Medio Oriente musulmano, però allo stesso tempo dentro alla NATO tentava di strappare. E la Merkel si è esposta tantissimo con questi 3 miliardi che gli sono arrivati. Esatto. Di cui gli sono arrivati credo 250 milioni poi in realtà alla fine, perché se ne fotteva il cazzo dei soldi, gli interessava avere un certo peso politico anche per potersi presentare alle elezioni come bilancia verso l'Occidente. E comunque c'è questo problema in realtà degli immigrati adesso. La Germania mi sembra che debba per forza difendere a questo punto una posizione ormai perdente, perché sul livello di immigrazione sta scoppiando tutto, ci sono 3 milioni di profughi in condizioni disumane lì. E insiste anche bloccando dei simboli in alleanza con la Turchia che guarda Putin, anche per evitare questo spostamento. Una vasta presenza di turchi, no? Poi in Germania. Boia. Che c'è stata in passato. C'è anche adesso. Anche Erdogan l'altro giorno ha detto ai turchi di tutto il mondo, in realtà, che sono sparsi in tutto il mondo. Fate 4 figli, perché ce lo prendiamo il mondo. Perché siamo tantissimi e facciamo il culo. Insomma, vabbè. Accenni di cose che ci interessano e che non approfondiamo, non riusciamo a approfondire in questa sede qua, ma ci sono tante altre sedi. Esatto, e poi abbiamo raccontato un sacco di volte, ci sono un sacco di iniziative, continueremo a aggiornarvi su questo, ecco, per essere sempre più informati. Ok. Dunque, sollazziamoci con un po' di musica. No. Sì, no. Allora, sollazziamoci con una bella lettura. Bravo. Meglio, dai. Meglio. Accendiamo. No, ci vuole del tempo, parliamo ancora un po' della Germania. Germania, 2006, andiamo a prendere Berlino. Ah già, c'era il mondiale, sì. C'era il mondiale, sì. E ora... E ora... legge tasso. Bruno arrivò verso le 21. Aveva già bevuto un po' ed era ansioso di affrontare argomenti teorici. Mi ha sempre colpito, cominciò prima ancora di essersi seduto, la straordinaria esattezza delle profezie fatte da Aldous Huxley nel Mondo Nuovo. È allucinante, soprattutto se pensiamo che quel libro lo scrisse nel 1932. Da allora la società occidentale ha tentato costantemente di raggiungere quel modello. sempre più accurato controllo della procreazione, che un giorno porterà alla sua completa dissociazione dal sesso e alla riproduzione della specie umana, in laboratorio, in condizioni di sicurezza e di affidabilità genetica totali. Conseguente collasso dei rapporti di parentela, del concetto di paternità e di filiazione. Eliminazione, grazie al progresso farmaceutico, della distinzione tra età della vita. Nel mondo descritto da Huxley, gli uomini di 60 anni hanno la stessa apparenza fisica, lo stesso dinamismo, gli stessi desideri dei ventenni. Poi, quando non è più possibile lottare contro l'invecchiamento, ci si congeda tramite eutanasia liberamente consentita dalla società, con grande discrezione, rapidamente, senza drammi. La società descritta nel mondo nuovo è una società felice, da cui sono scomparsi tragedie e sentimenti estremi. La libertà sessuale è assoluta, non vi è più alcun ostacolo al piacere e al godimento. Permangono piccole sacche di depressione, di tristezza, di dubbio, ma vengono facilmente curate per via farmacologica, la chimica degli antidepressivi e degli ansiolitici, avendo fatto considerevoli progressi. Con un centilitro guarisci 10 sentimenti. È esattamente il mondo in cui aspiriamo oggigiorno, il mondo nel quale attualmente desidereremmo vivere. So bene, proseguì Bruno con un movimento della mano come per spazzar via l'obiezione che Michel non aveva fatto, che in genere l'universo di Huxley viene descritto come una specie di incubo totalitario e che si tenta di far passare il mondo nuovo per una violenta presa di posizione contro questo genere di regime. Ma è un'ipocrisia bella e buona, sotto tutti i punti di vista. Controllo genetico, lotta contro l'invecchiamento, ottimizzazione del tempo libero. Per noi il mondo nuovo è un paradiso. È esattamente il mondo che ci sforziamo sin qui invano di raggiungere. Oggigiorno vi è soltanto una cosa che contrasta un po' col nostro sistema di valori egualitario, o più precisamente meritocratico, ed è la divisione della società in caste, adibite a diversi compiti a seconda della loro natura genetica. Ma è praticamente l'unico punto su cui Huxley si sia rivelato un cattivo profeta. È praticamente l'unico punto che, con lo sviluppo della robotizzazione e della meccanizzazione, si è diventato sostanzialmente inutile. Aldous Huxley è senza dubbio un pessimo scrittore. Le sue frasi sono pesanti e sgraziate, i suoi personaggi sono insulsi e meccanici. Non di meno egli ebbe l'intuizione fondamentale che l'evoluzione della società umana fosse ormai da secoli, e sempre più sarebbe stata, pilotata esclusivamente dall'evoluzione scientifica e tecnologica. Sarà pur stato privo di finezza, di psicologia, di stile, ma tutto ciò non inficia minimamente l'esattezza della sua intuizione di partenza. E, primo tra tutti gli scrittori, ivi compresi quelli di fantascienza, capì che dopo la fisica sarebbe stata la biologia a fare da principio motore. Bruno si interruppe e così ebbe modo di constatare come il fratello, un po' dimagrito, sembrava stanco, pensieroso, svagato. Da qualche giorno Michel non andava più a fare la spesa. Contrariamente agli anni precedenti, davanti al Monoprix stazionavano parecchi mendicanti e parecchi strilloni. Eppure si era in piena estate, stagione in cui generalmente la povertà si fa meno opprimente. «Che succederà quando ci sarà la guerra?» si chiedeva Michel, osservando dalle vetrine il lento viavai di barboni. Bruno si riempì di vino un bicchiere, cominciava ad avere fame e fu sorpreso quando il fratello gli rispose con voce fioca: Huxley apparteneva a una grande famiglia di biologi inglesi. Suo nonno era amico di Darwin e scrisse diversi articoli in difesa della tesi dell'evoluzionismo. Suo padre e suo fratello Julian erano anch'essi biologi famosi. La loro famiglia rispecchiava in pieno quella tradizione inglese di intellettuali pragmatici, liberali e scettici, diversissima dal secolo dei lumi francese, basata sull'osservazione e sul metodo sperimentale. In gioventù Huxley ebbe molto di intrattenersi con tutti quegli economisti, quei giuristi e soprattutto quegli scienziati che il padre invitava a casa. Tra gli scrittori della sua generazione era sicuramente l'unico in grado di intuire i passi avanti che avrebbe fatto la biologia. Ma tutto ciò si sarebbe sviluppato molto più in fretta senza il nazismo. L'ideologia nazista ha contribuito in maniera cruciale a screditare il concetto di miglioramento della razza e di eugenetica. Per colpa del nazismo abbiamo sprecato anni preziosi prima di poter tornare ad affrontare questi concetti senza dovercene vergognare. Michel si alzò e prese da uno scaffale della libreria un volume intitolato «Ciò che oso pensare». L'ha scritto Julian Huxley, il fratello maggiore di Aldous, e fu pubblicato nel 1931, un anno prima del Nuovo Mondo. Vi si trovano suggerite tutte quelle idee sul controllo genetico e sul miglioramento della specie, ivi compresa quella umana, che il fratello tratterrà nel suo romanzo. Tutto ciò viene presentato, e senza la minima ambiguità, come un fine augurabile, verso il quale è opportuno tendere. Michel tornò a sedersi e si asciugò la fronte. Dopo la guerra, nel 1946, Julian Huxley venne nominato direttore generale dell'UNESCO, che era appena stata creata. Nello stesso anno suo fratello pubblicò Ritorno dal Nuovo Mondo, nel quale tenta di presentare il mondo nuovo come una denuncia, una satira. Qualche anno dopo, Aldous Huxley diventò il principale garante teorico dell'esperienza hippie. Era sempre stato un fautore della libertà sessuale, aveva avuto il ruolo di pioniere nell'uso delle droghe psichedeliche. I fondatori di Esalen lo conoscevano ed erano stati influenzati dal suo pensiero. Il movimento New Age, successivamente, ha adottato integralmente gli argomenti di base dell'esperienza di Esalen. In sostanza, Aldous Huxley è uno dei pensatori più influenti di questo secolo. Andarono a mangiare in un ristorante lì vicino, dove servivano fonduta cinese a 270 franchi la porzione per due. Michel non usciva di casa da 3 giorni. «Oggi non ho mangiato», notò con una certa sorpresa. Aveva portato con sé il libro di Julian Huxley. Huxley pubblicò Isola nel 1962. È il suo ultimo libro, proseguì mescolando il suo riso colloso. È ambientato in un'isola tropicale paradisiaca. La vegetazione e i paesaggi sono ispirati probabilmente allo Sri Lanka. Su questa isola si è sviluppata una civiltà originale, lontana dalle grandi correnti commerciali del XX secolo, una civiltà molto avanzata sul piano tecnologico, ma al tempo stesso rispettosa della natura. Pacificata, completamente sciolta dalle nevrosi familiari, dalle inibizioni giudaico-cristiane, lì la nudità è considerata naturale, la voluttà e l'amore vengono praticati liberamente. Questo libro, mediocre ma assai facile da leggere, ha influenzato enormemente gli hippie e, tramite loro, gli adepti della New Age. A ben guardare, la comunità armoniosa descritta in Isola ha parecchi punti in comune con quella del Nuovo Mondo. In realtà Huxley stesso, nel suo probabile stato di rincoglionimento, sembra non essersi accorto dell'analogia. Fatto sta che la società descritta in Isola è tanto vicina al mondo nuovo quanto la società hippie libertaria lo è a quella della società borghese liberale, o piuttosto alla sua variante socialdemocratica svedese. Si interruppe, inzuppò una gamba nella salsa piccante e posò le bacchette. Come suo fratello, Aldous Huxley era un ottimista, disse infine con un tono come di disgusto. La mutazione metafisica che ha creato materialismo e scienza moderna ha avuto due grandi conseguenze, il razionalismo e l'individualismo. L'errore di Huxley è stato quello di non aver valutato adeguatamente il rapporto di forza tra queste due conseguenze. In dettaglio il suo errore sta nell'aver sottovalutato l'aumento di individualismo prodotto da un'incrementata coscienza della morte. Dall'individualismo nascono la libertà, il senso dell'io, il bisogno di distinguersi e di essere superiori al prossimo. In una società razionale come quella descritta da Il Mondo Nuovo, lo scontro può essere attenuato. In una società ricca, dove i flussi economici siano sotto controllo, la competizione economica, metafora del dominio dello spazio, non ha più ragione di esistere. La competizione sessuale, metafora tramite la procreazione, del dominio del tempo, non ha più ragione di esistere in una società dove la dissociazione sesso-procreazione sia perfettamente realizzata. Ma Huxley ha dimenticato di tener conto dell'individualismo. Non ha saputo capire che il sesso, una volta dissociato dalla procreazione, sussiste come mero principio di piacere, che come principio di differenziazione narcisistica. Lo stesso dicasi per il desiderio di ricchezza. Perché mai il modello della socialdemocrazia svedese non è mai riuscito a prevalere sul modello liberale? Perché mai non si è riusciti a sperimentarlo, neppure nel campo della soddisfazione sessuale? Perché la mutazione metafisica operata dalla scienza moderna si porta dietro l'individuazione, la vanità, l'odio e il desiderio. Di per sé il desiderio, contrariamente al piacere, è fonte di sofferenza, di odio e di infelicità. E questo tutti i filosofi, non solo i buddisti, non solo i cristiani, ma tutti i filosofi degni di questo nome, l'hanno capito e insegnato. La soluzione degli utopisti, da Platone a Huxley, passando per Fourier, consiste nell'annientare il desiderio e le sofferenze connesse, organizzandone l'immediata soddisfazione. All'opposto, la società erotico-pubblicitaria in cui viviamo si accanisce a organizzare il desiderio, a svilupparlo fino a dimensioni inaudite, al tempo stesso controllandone la soddisfazione nel campo della sfera privata. Affinché la suddetta società funzioni, affinché la competizione continui, occorre che il desiderio cresca, si allarghi e divori la vita degli uomini. Si asciugò la fronte, sfinito. Non aveva toccato cibo. «Ci sono dei correttivi, dei piccoli correttivi umani», disse dolcemente Bruno. «Cioè cose che permettono di dimenticare la morte. Nel Nuovo Mondo si tratta di ansiolitici e di antidepressivi. Nell'isola invece è più una faccenda di meditazione, di droghe psichedeliche, di vaghi elementi di religiosità indù. In pratica oggi la gente cerca di creare una combinazione tra le due cose. Anche Julian Huxley affronta le questioni religiose. In ciò che oso pensare, e lo fa dedicandovi tutta la seconda parte del libro, ribatté Michel con disgusto crescente. È perfettamente consapevole di come il progresso della scienza e del materialismo abbia distrutto le basi di tutte le religioni tradizionali. È altrettanto consapevole di come nessuna società possa resistere senza religione. Per più di 100 pagine Julian Huxley tenta di gettare le basi di una religione compatibile con la situazione della scienza. Non si può dire che il risultato sia convincente, né si può dire che l'evoluzione della nostra società sia andata in questo senso. In realtà, annientata dall'evidenza della morte materiale, ogni speranza di fusione, la vanità e la crudeltà non possono non svilupparsi. In compenso, concluse bizzarramente, possiamo dire altrettanto dell'amore. Julian e Aldous, da Particelle elementare, di Michel Houellebecq. A letto, tasso. Yeah. Ci siamo. Rieccoci qua, vero? Sì. Rieccoci qua, sì. Molto bene. Dopo un'ottima lettura e un ottimo pezzo, siamo tornati qua. Rieccoci. Molto bene, allora. Mucho gusto. Vi ricordiamo subito, visto che ne abbiamo parlato diverse volte, sono venuti anche i ragazzi qua da noi direttamente. Ci sono uscite le sentenze di per lo sgombero in Via Toselli, per l'occupazione in Via Toselli. E sono stati dati, erano stati richiesti un anno e mezzo. Sì. Per tutti e 12 imputati. Tutti e 12 gli imputati. Sì. E il giudice ha dato 8 mesi. a tutti e 12 gli imputati senza la possibilità della dell'uso della condizionale. Ok, quindi al momento è stato già fatto senza appello, quindi ci sarà il secondo grado di giudizio, quindi per ora ancora sono tutti liberi, diciamo. E però insomma non sembra buttare un granché bene per questa faccenda, a cui rivolgiamo per l'ennesima volta la nostra solidarietà, direi. Assolutamente. Di Wombat in generale. Sì, sì, sì, assolutamente. E per passare alle cose un po' più scherzose. Frivole, stupide. Stupide, meglio oggi stupide. Abbiamo visto a un certo punto questo caso Perego di questa trasmissione sulla Rai, parliamone sabato, e abbiamo detto ma no, ma ne stanno parlando tutti. Poi però cosa, che coglioni. Poi abbiamo visto questa cosa qui, abbiamo detto beh, non è possibile che abbiamo fatto veramente una cosa del genere. E no, che adesso ce la puoi illustrare se vuoi anche. Allora, sì, no, perché è dopo averla letta che ci siamo detti no vabbè, ma che roba è. Allora, è stata praticamente all'interno della trasmissione, c'era l'elenco, i motivi. No, dimmi. Sì, no, no, perché prima c'era stato un sondaggione, ok? Un'inchiesta, un grande approfondimento, che è: le donne dell'est rubano i mariti alle donne italiane? Che grande. Domandone. Domandone. Dal domandone la Rai, Rai 1, giustamente, come per il servizio pubblico, ha deciso di fare la sua lista di motivi per cui è meglio scegliere una fidanzata dell'est. E questi sono i sei motivi. Ma nel senso che tipo ha diviso la lavagna a metà, ha messo i motivi perché sì, motivi perché no. No, solo perché fidanzata dell'est, hanno detto. Ma dico i perché sì. Solo perché sì. I sei motivi per cui scegliere una fidanzata dell'est. Sentiamo, io sono molto rispetto curioso a chiunque altro, cioè proprio. Non l'hai sentiti? No. Vabbè, ragazzi, stiamo per entrando in un mondo. Siamo per così dire al top. Sono solo nomi di parti del corpo. Vediamo. Allora, vediamo. Partiamo dalla number one, non dal fondo per arrivare alla vetta, perché la 6 è veramente incredibile. Allora, questo è Rai 1, Questo è Rai 1. Quanti sono in tutto? Sono 6, quindi anche veloci. Allora, number one: sono tutte mamme, ma dopo aver partorito recuperano un fisico marmoreo. 2. Sono due. Sempre sexy. Niente tute né pigiamoni. Ah, bravi. Poi, che comunque perdona, il suo fascino, secondo me, il pigiamone, la tuta, assolutamente. Autore della tuta. Io aspetto il punto sulla cucina e sul fatto aspetta. Comunque la prima erano già due, Però l'hanno messa tutte nello stesso punto. Cioè, non ti puoi aspettare qualità da questa cosa, di base. Sta partendo male. Vai. Numero 3. Perdonano il tradimento. Attenzione. Certificata questa cosa? Ma sì, che, sì, certo. Lo studio antropologico rileva che. Poi siamo al numero 4. Numero 4. Sono disposte a far comandare il loro uomo. Capì? Ragazzi, ma siamo veramente al top. Ma qui è un'escalation, ragazzi, perché arriviamo alla numero 5. Sono casalinghe perfette e fin da piccole imparano i lavori di casa. Ok, ripeto sempre Rai 1. Rai 1, ragazzi. E adesso l'ex poa è: non frignano, non si appiccicano e non mettono il broncio. Ragazzi, ma questa è pubblicità, cioè le stanno pubblicizzando, nel senso, io non le sapevo queste cose. Questo era la sketch, un pensiero serio. Capito, stanno convincendo i maschi della redazione. Cioè questa era la risposta al motivo per cui gli italiani scelgono le donne dell'est rispetto alle altre donne italiane. Per questi sono i sei motivi. Troppo le troveremo tipo tra i banconi dell'S lunga, nel senso proprio. Io non sono rimasto sconvolto. Anche mentre la lanciavamo era tutto. Noi non vogliamo fare nessun commento, lasciamo a voi a tutti i commenti, soltanto una veramente una grossissima risata e anche qualche mano nei capelli. Beh, sì, a questo punto c'è chi ci farà una settimana di trasmissione. Ah, sì. Per un'altra volta dare una sterzata a questa faccenda. È tutto un curve oggi, tutta una curva. Quasi vedi il muro e poi sterzi. C'è Anita qui con noi. Ciao Ani. Ciao Ani. Ciao ragazzi. E che ci legge qualcosa. Sì. Che adesso ci dice anche che cosa, perché non lo so. Ah no, invece sì, Gaber, no, vero? Sì, oggi ho scelto il testo La paura di Giorgio Gaber, presente anche nell'album Polli d'allevamento. Sì, bellissimo. Del 1991 il testo. Ok, ok, ok. Ottimo. Okay. E poi, tra l'altro, mi sa che dopo ci abbiamo una sorpresina come l'altra volta che sì, c'è. Ok. Sì. Quindi bello, direi partire con la sigla e poi sigla, giubbotte. Sigla. E camminando di notte nel centro di Milano, semideserto e buio, e vedendomi venire incontro l'incauto avventore, ebbi un piccolo sobbalzo nella regione epigastrico duodenale che a buon diritto chiamai paura o vigliaccheria emotiva. Sono i momenti in cui amo la polizia, e lei lo sa, e si fa desiderare. Si sente solo il rumore dei miei passi, avrei dovuto mettere le Clark. La luna immobile e bianca disegna ombre allungate e drittissime. Non importa, non siamo mica qui per fare delle fotografie, dai. Cappello in testa e impermeabile chiaro, che copre l'abito scurissimo. L'uomo che mi viene incontro ha pochissime probabilità di essere Humphrey Bogart. Le mani stringono al petto qualcosa di poco chiaro. Non posso deviare, mi seguirebbe. Il caso cane gatto è un esempio chiarissimo. Finché nessuno scappa, non succede niente. Appena uno scappa, quell'altro, ed è giusto, perché se uno scappa deve avere una buona ragione per essere seguito, altrimenti che scappa a fare? Da solo. In quel caso si direbbe semplicemente corre, e se lui non mi seguisse, non ho voglia di mettermi a correre come un cretino alle 2 di notte per Milano senza le Clark. La luna è sempre immobile e bianca, come i tempi in cui c'erano ancora le notti d'amore. Non importa, proseguo per la mia strada. Non devo aver paura. La paura è un odore e i viandanti lo sentono. Sono peggio delle bestie questi viandanti, è chiaro che lo sentono. Ma perché sono uscito? Avrei dovuto chiudermi in casa e scrivere sulla porta non ho denaro a titolo di precauzione per scoraggiare ladri e assassini. E lo strangolatore solitario? Quello se ne frega dei soldi. Dovrei andare a vivere in Svizzera. Non si è mai abbastanza coraggiosi da diventare vigliacchi definitivamente. Ma l'importante ora è andare avanti, deciso. Qualsiasi flessione potrebbe essere di grande utilità al nemico. La prossima traversa è vicina e forma un angolo acuto. Acuto o ottuso, non importa. Però sento che lo potrei raggiungere l'angolo. E allora... Ma il nemico avanza, allunga il passo o una mia impressione. Ricordati del cane e del gatto, anche lui ha paura di me. Devo puntargli addosso come un incrociatore, sì. Avere l'aria di speronarlo. Ecco, così. È lui che si scosta, disegna una curva. No, mi punta. Siamo a 10 metri. Le mani stringono al petto un grosso mazzo di fiori. Un mazzo di fiori? Chi crede di fregare? Una pistola, un coltello, nascosti in mezzo ai tulipani, come sono furbe le forze del male. Eccolo. È a 5 metri. È finita. 4, 3, 2, 1... Ah, niente. Era soltanto un uomo. Un uomo che senza il minimo sospetto mi ha sorriso, come fossimo due persone. È strano. Ho avuto paura di un'ombra nella notte. Ho pensato di tutto. L'unica cosa che non ho pensato è che poteva essere semplicemente una persona. La luna continua a essere immobile e bianca, come ai tempi in cui c'era ancora l'uomo. Vivere, non riesco a vivere, ma la mente mi autorizza a credere che una storia mia, positiva o no, è qualcosa che sta dentro alla realtà. Nel dubbio mi compro una moto, telaio manubrio cromato, con tanti pistoni, bottoni, accessori più strani. Far finta di essere sani, far finta di essere insieme a una donna normale, che riesce anche ad essere fedele, comprando sottane, collane, creme per mani. Far finta di essere sani, far finta di essere liberi, sentirsi liberi. Forse per un attimo è possibile, ma che senso ha se è cosciente in me la misura della mia inutilità? Per ora rimando il suicidio e faccio un gruppo di studio sulle masse, la lotta di classe, i testi gramsciani, far finta di essere sani, far finta di essere un uomo con tanta energia che va a realizzarsi in India e in Turchia. Il suo salvataggio è un viaggio in luoghi lontani. Far finta di essere sani, far finta di essere. Vanno tutte le coppie, vanno, vanno la mano nella mano, vanno anche le cose, vanno, vanno, si ingrossano piano piano. Le fabbriche, i grattacieli, le autostrade e gli stadi comunali, e vedo bambini cantare, in fila li portano al mare, non sanno se ridere o piangere, battono le mani. Far finta di essere sani, far finta di essere sani, far finta di essere sani, far finta di essere sani, far finta di essere. Ulala! Bravissimi tutti e due, ragazzi. Sia Anita che ci ha letto il pezzo, davvero. Sia... Pelle di foca, davvero. Pelle di foca. Grandi, grandi, grazie mille ancora per questa combo, tra l'altro che vi viene particolarmente bene, a mio parere. Nel senso, anche secondo me. Smeliamo un po' i nostri... È la digievoluzione di entrambe le... Sapevo che prima o poi dicevi la parola digievoluzione, certo. Porca puttana. Vabbè. Senza fallo. Ecco, abbiamo anche il sottofondo. Abbiamo anche il sottofondo, sì. Il che volevamo dire noi adesso a questo punto? Un sacco di cose ancora. Un sacco di cose. No, io volevo dire, se no me ne scordo. Non abbiamo ancora mai detto. Tutte le volte citiamo eventi in polveriera, cose che ci sono a giro, ma anche, soprattutto anche quelle che ci sono in polveriera, che evidentemente ci interessa abbastanza. Ah, e sì? Sì, se non si fosse capito. No, volevo dire, c'è un blog in tutto ciò, che è sempre aggiornato, estremamente funzionale, che è lapolveriera.blogspot.it, che è il blog della Polveriera, in cui sono, c'è un calendario aggiornato fisso, cioè sempre aggiornato, insomma, aggiornato sì, sì, tutte sul le pezzo, settimane, per esatto, così dire. Con tutti gli eventi, mm-hmm, anche quelli fissi, che sono diversi. Tra l'altro si è aggiunto un corso di yoga. Sì, sì. Sempre gratuito, quindi il martedì e il giovedì, una volta la mattina, una volta il pomeriggio. Quindi se volete partecipare, andate, fatevi vedere e verrete accolti. Sì, il maestro è appena tornato dall'India. Esatto, esatto. E dice anche di portarsi un materassino nel caso. Sì. Ok. E, no, poi sul blog appunto ci sono un sacco di altre sezioni, tra cui... informazioni più approfondite sul chiostro di Santa Pollonia, sui laboratori che vengono fatti in quello spazio, sulle attività appunto, e anche articoli e contributi su di approfondimento. Sulla nostra città. In più c'è anche, tra l'altro, una sezione con tutta una lista di, diciamo, siti amici, siti nel amici, senso luoghi in cui si possono trovare sia informazioni sia contenuti molto, molto interessanti, ma dal sito di Clash all'Osservatorio sulla Repressione a Nazione Indiana, Jap e Carmilla, che sono tre blog letterari molto, molto belli e con cui abbiamo avuto a che fare, quindi insomma ovviamente il sito di The Radio Wombat e tante altre cose. Quindi niente, spulciatevelo questo blog, lapolveriera.blogspot.it, perché non è male, per niente. Per niente. E quindi sì, poi tra l'altro in Polveriera c'è anche il corso di hula hoop. Sì. Che c'è il martedì, la sera alle alle 23. Sì, 20, sembra, intorno, sì, sembra, e, 19, e anche un ottimo corso di teatro. Ottimo. Ottimo, fatto in casa. Sì. Un ottimo corso di teatro il giovedì. Sciarissimi. Croccante. Un corso di teatro croccante. E cremoso. Noi avremo fame, però aspettiamo ancora un po'. Sì. E se sentiamo una canzoncina? Avevo promesso di non dire più questa parola, ma l'ho detto lo stesso. Che dite? Guess who? The J-U-R-A-S-S-I-C. Where? In the place to be. It don't stop. We got the rhythm that makes your fingers snap. Crackle, pop, pop, fizz, fizz. We're known to give a show plus handle our business. Stress, stress. We destroy. We're known to make noises. We original B-boys. In the flesh, created to the death. Creates the ill scenes when we manifest. Yes, I feel the vibe. I feel the vibe too. Cause it's the butter from the crew. Cause we original who? Wanna tussle. Vocal muscle while we kick the style that busts your blood vessels with the rhythm, the 96 stylism. Pick up and pill a fill 'em, kill 'em with your vocalism. I shoot the gift, I'm planning the full swift. Vocals are coming thicker than Anna Nicole Smith. Of lignin' metaphors and conscious state nerves. We conjugate verbs and constipate nerves like you. I'm here to end a conspiracy, feel it sleep. So you can really see the rhythm seas at hand. I'm tuna fish on the stick ship. The eclectic, hectic, desperate, deceptive. Ow! For the niggas who feel that's 24 carat. Plus the way you live and get your underwater baptism. Believe it or not, it's the rugged and raw. Put the bullet in the head of four at my rush. Yeah. Release the beast from within. Baptize gins. Keep company with friends that repel sin. I'm out to win, ain't no pretending. Fuck the First Amendment. My speech was free the day that my soul descended. Earthbound, we break sound, bury us. Some niggas can rhyme, but they got no character. So we're preparing you for war. Don't give up the fight. You need to stand up for your rights. Produce the juice that keeps the head on collision with the new world order, opposition, competition, none. There's only one in the universe that knows the final outcome. We got incarcerated minds, men, women, and enzymes. Vibing off the rhymes sent from the divine essence. Presence of a essence, not to be contested. Some miss the message. Go ahead and bless. So don't mistake us for a crew that used to hit me on some underground, send it by wild style shit. We be the crew, guess who? And it'll be the JU 95AD. And ramifications, physicians, sending brothers and grandma vacations if they don't listen. Competition, busting shots and people basing, but we can relieve constipation. Jurassic 5 MCs, and we got the cure for this rap disease. So come on, everybody, let's all get down. Cause I'm down by law, and I know my way around. Edit. I videogiocatori sono finiti, ma puoi sempre ottenere la laurea in comunicazioni. Oh, mi dispiace tanto. Lo so, è laurea fasulla. È laurea fasulla. La gioia dei Simpson. Non ne ho trovata una su una laurea storia. Ah, grazie. È vero, Guido si è laureato, ragazzi. Bam, bam, bam, bam, bam. Oh, bravo! A volte tornano. Comunque, lo qui... Zero. Comunque, mi saluto tutti. Quindi, acculturati. Questa è la, è la pubblicità progress di Radio Wombat. Se si è laureato Guido, ci possiamo laureare tutti. Allora, no, è vero, adesso, bravo Guido. Adesso, da dottore, posso cominciare a dire con più con sicurezza detti dal mondo. Certamente, fine, no? Padronanza. Più padronanza. Quindi adesso attenzione, la nuova rubrica di Radio Wombat, la preferita di, dei nostri ascoltatori, sì. È quella dei è quella dei detti dal mondo. Attenzione, detti dal mondo. Ci eravamo lasciati la scorsa settimana con delle richieste che sì. Io non ricordo più. Islanda, sì? Mi era stato chiesto e in realtà poi era stata sostituita da quando le foche ballano. No, quando le foche non ci sono, non ci sono le, i pesci, i pesci ballano. Sì. Ne ho trovato uno, un altro simile. Invece, no, non simile, okay. Detto però islandese, che recita così. raramente c'è una sola onda. Bello, bello, la Pease? Sì, sì, è molto bello, bravo. E sì, e poi c'era stata un'altra richiesta. Sì, io avevo chiedeva Zimbabwe. Ah, grande, sempre. Boh. Il proverbio zimbabwese è: il cammino non è lungo se si ama la persona che si va a trovare. Non ti ho ascoltato. Ma no, come non mi hai ascoltato? È incredibile, cioè, lo so, è incredibile. Lo ridici? Allora, il cammino non è lungo se si ama la persona che si va a trovare. Ok. Ok? Sì. Ti piace? Sì, abbastanza. Allora, a questo punto facciamo partire il nostro concerto game che io tendenzialmente fallisco. Ho rotto tutto. Bravo. Come puoi vedere, ho appena rotto tutto. Mi sei staccato proprio tutto. Mi sei staccato tutto e quindi niente, faccio così. Va bene. Non importa. E che dicevi? Ah, il Toto. Sì. Il Toto. Allora, quindi, abbiamo richieste? Sì. Aspetta, scorri un po'. Allora, sono tutte in ordine alfabetico, cioè sto diventando professionale. Oggi ti sei messo e hai detto, sì, oggi... E boh, basta. Era nel... Vai. Andre, attenzione. Uruguay, dice Andre da lontano. Uruguay, molto bello. Allora, andiamo alla U, che non esiste la U. Te giustamente hai messo, però vedo, Yiddish alla Y. Sì. Con ebraico, ebraico, perché... Praticamente alla fine sono la stessa cosa. Sono la stessa cosa. Ce l'hai un... Allora, abbiamo chiesto se hai detto Uruguay, che però non abbiamo e quindi rimandiamo la settimana prossima. Uganda. Sì. Allora con la U non c'è niente, ok? Uganda, con la U non sì, c'è Uganda niente. Ce l'ho, però aspetta. Non torna se c'è Uganda. Perché tu in mezzo alla A di africano, capito? Capito? Esatto, in mezzo alla A di africano. No, non mi interessa in verità l'Uganda. Non lo vuoi l'Uganda? Cuba era buono secondo me. Non c'è Cuba, ragazzi. Allora... Cuba, allora, Cuba non c'è sta. Vi facciamo una lista di quelle che ci sono, così almeno scegliete da quello. No, però lui inizia dicendo tutto aggiornato, il documento. Ho detto che poi fallisco sempre. Ma perché? Ma perché c'è una 16 africani e poi il resto è... Che poi c'è la lista nuova, forse lì c'è. Però qui c'è... È complessa. È fallimentare la mia rubrica. Diciamo la verità. No, è meravigliosa. Perché crea questo momento in cui non si capisce più se ci stiamo divertendo solo noi o anche gli ascoltatori, capito? E è bello, alla fine. Allora, dimmi, caro. Proviamo un cazzo di scozzese, dai. Ah, lo scozzese. Proverbio scozzese. No, lo scozzese è bello. Grande popolo, grande, sì. Grande popolo, gli scozzesi. Allora, il proverbio scozzese recita così. Il gatto timido fa il topo coraggioso. Sei davvero scozzese questo? Scozzese. No, a me non mi piace. Te non ti guardo, vabbè. Cioè, non è che il topo deve essere coraggioso se il gatto è timido. Il topo coraggioso deve essere sempre coraggioso comunque. A maggior ragione se il gatto è legnoso. È così però piccolo. Il topo... Allora, chiariamo un attimo. La cosa importante è che ne parlate nel microfono, perché sennò veramente ci divertiamo solo noi. Chiariamo. Il gatto timido fa il topo coraggioso. Sì, cioè, è questo il proverbio. Il gatto nel momento in cui fa il timido, il topo prende coraggio. E la critica dalla regia è che il topo deve essere solo coraggioso, perché è un cazzo di topo, è una bomba in realtà. Io invece avevo pensato che il gatto, che ha un carattere che è timido, sì, quindi quei gatti fa è timido, cioè... Però quei topi fa il coraggioso, no? Invece il gatto timido... Ma no, questo proprio non è... Fa il topo coraggioso. Questo non credo. Io piuttosto mi chiedo se il fa è inteso proprio nel senso che lo fa... cioè che gli cambia la vita al topo, capito? Sì, se totalmente. Il topo si incontra con un gatto timido, da quel momento diventa un topo cazzuto. Esatto. Sì, e non semplicemente nel caso in cui... Ma nel senso, se il primo cattivo con cui ti scontri è un cattivo... sconfiggibile, magari la prossima volta, anche quando il cattivo sarà cattivo, tu sarai forte della grinta. Salviamolo se vogliamo. Che viene dalla Scozia. Elucubrazioni inutili. Pippe. Siamo qui. Ma Galles, già che siamo in Great Britain. No, non ce l'ho, per Dio, subito. Galles, ce l'ho in inglese. Dai, ce l'ha un inglese bello? Se c'è un inglese bello, lo accettiamo. C'ho questo. La curiosità, sempre rimanere sempre in tema felino. La curiosità uccise il gatto, ma la soddisfazione lo riportò in vita. Cosa ne pensate? Bella, questa mi piace. Questa ti è piaciuta? Ci devo pensare ancora un po', però. Pensaci un po', perché questa è una rubrica che fa pensare. Mi è venuto il brividino, intanto. Il brivido blu. Il brivido blu che potrebbe accompagnare anche la prossima canzone, e nel frattempo che continuiamo a aspettare di mangiare. e ci gustiamo un pezzaccio. Bravo. Avete la mia completa attenzione. lo sbirillo. Impasti lo sbirillo. Impasti lo sbirillo. Impasti lo sbirillo. Eccolo. Buonasera. Cioè, è una sigla corale. È una sigla, sì, sì, corale, generale, fatta da tutti, tutti quanti, tutti insieme. Non è male. Buonasera, buonasera. Ciao Lillo. Ciao. Avevamo fame e ti abbiamo aspettato. Avete fatto bene. Io ho perso una compagna per la strada, Caterina. Dove sì. È finita? Ah. Chissà. Chissà. Non lo so. Vabbè, comunque avevamo ripromesso un attimo di affrontare la questione dei marroni. Ah già. Ah già. Giusto? Anche portando cose, però io purtroppo è già tanto se ho portato me. E quindi niente, niente marroni. Cioè niente marroni, niente cose da pappare di marroni. In verità vi ho preparato una cosetta, sì. Bene, che è sia una ricetta sia una, come si può dire, una infarinatura generale, va bene, su cosa sono i marroni, come si utilizzano, come quanto sono buoni anche. Va bene. Intanto la ricetta è del castagnaccio, va bene, semplicissima, toscanissima. Bene, il castagnaccio non è altro che un... va bene, ve la leggo direttamente. Va bene, servono mezzo chilo di farina di castagne. Poi servono 50 grammi di noci, 50 grammi di uva passa, noci oppure potete usare anche pinoli. E poi ci mettete un mezzo bicchiere di olio, va bene? Poi okay. Ci va anche l'acqua. Però, prima di tutto dovete prendere e setacciare questo mezzo chilo di farina di marroni. Va bene, la setacciate in una terrina. Una volta setacciata, in modo da togliere tutti i grumi, va bene, perché la farina di marroni è una cosa che tende a fare i grumi, la farina di marroni. E quindi la setacciate, dopodiché la sbollentate con un po' d'acqua tiepida, va bene, quindi fate un impasto non troppo morbido, abbastanza duro. A questo impasto poi aggiungete il mezzo bicchiere di olio, aggiungete 50 grammi di pinoli, o di noci sgusciate e 50 grammi di uvetta, di uva passa. L'uvetta prima si mette nell'acqua, vero? L'uva passa naturalmente prima la mettete un pochino a mollo, mollo. Bravo. Riprende un po', insomma, un po' di morbidezza. A quel punto avete fatto questo impasto, va bene? Deve essere abbastanza morbido. Potete adagiarlo su una teglia con il fondo unto e infilarlo in forno per circa un'oretta a 150-160 gradi. Ma qualche buccetta di arancia? Allora, qualche buccetta d'arancia, sì, c'è chi ci mette qualche buccetta d'arancia, soprattutto c'è chi ci mette, io ci metto per esempio il rosmarino, quindi una volta... Il rosmarino, fondamentale. Fondamentale, sì. Quindi una volta che l'avete preparato, prima di metterlo in forno, potete metterci sopra un po' di rosmarino, così, proprio... Sì. Rametti di rosmarino, un filo d'olio e in forno. Quando sarà... l'impasto dovete farlo, cioè nella teglia deve essere non più alto di un dito naturalmente per orizzontale, non sì. Per verticale, sì. Se no vi viene un pancone. E quando sarà cotto sentirete un ottimo odore che esce fuori, quando sarà quasi cotto sentirete un ottimo odore che esce dal forno e che, okay. e che invade. Prima no, prima non, fino a che non è cotta proprio la farina marroni non produce tutto questo odore. Un po' come tutti i dolci, no? Quando li infili dentro. Sì, sì, certo. Ecco, allora dunque, no, niente. Allora, questa è la farina di marroni. Cosa c'è da dire sulla farina di marroni? È un piatto antichissimo, è un prodotto antichissimo, nel senso che i marroni vengono coltivati, beh, oddio, da millenni, probabilmente, va bene? Grande distinzione, prima di tutto, marrone e castagna. Sono due cose diverse. Bravo, ecco, fondamentale. Allora, diciamo, noi i marroni li tiriamo fuori dal castagno europeo. Va bene, esistono diverse varietà di castagni, fra i quali, per esempio, c'è quello cinese, quello americano, quello giapponese. Non vi sto a dire i nomi scientifici, perché non me li ricordo nemmeno. Comunque, quello europeo è quello che coltiviamo noi e che è chiamato... Castanea sativa, va bene? Mm. Appartiene alla, alla famiglia delle fugacee, è una fugacea, va bene? Quindi la stessa dei faggi e dei cerri, delle querce, la stessa famiglia. Va bene? È molto frequente, cioè è molto coltivato, anche se coltivato è una parola che non si può quasi più utilizzare, nel senso, comunque, circa il 10% della superficie boschiva italiana, va bene, è occupata da castagni. Boia. Va bene. 10% è il 10% poco, è tanto, non è poco, non è assolutamente poco. Di questo, naturalmente, cioè, è occupata, cioè, è una pianta che tendenzialmente voi la potete trovare per esempio anche nelle isole, la potete trovare in Sicilia, la potete trovare all'Isola d'Elba, così come la potete trovare sull'Appennino Tosco, sull'Appennino e su tutte sulle montagne, sulle montagne in generale, ecco, quindi dipende molto. Comunque il castagno europeo è un albero versatile. Molto versatile. Il castagno europeo sì, sì, sì, si sviluppa, cioè cresce soprattutto nel, insomma, in un clima mediterraneo. Comunque, appunto, io ho tirato fuori alcuni dati, bene, e praticamente pare che, per esempio, in Toscana ci siano circa 75.000 ettari di castagneti, bene, di cui però, appunto, a coltura circa 21.000. Non sono pochi, però sono praticamente quasi un quarto di castagne. Comunque tutto sommato, di castagne, esatto. Producono, si produce in Toscana fra circa 35.000 quintali di marroni e 45.000 quintali di castagne. Il problema qual è? Il problema, appunto, questa discrepanza tra territorio utilizzato a coltura di castagno e invece veramente e poi coltivato e non coltivato è grosso, perché allora intanto si può dire che naturalmente lo spopolamento delle campagne ha portato a tutto bla bla bla a far sì che appunto non venisse coltivato meno, quindi un po' lo spopolamento delle campagne, un po' delle malattie, ci sono diverse malattie che sono arrivate sui castagni, in particolare sono tre. Una si chiama mal d'inchiostro, una si chiama cancro della corteccia e poi c'è la più aggressiva che si chiama cinipide, che è un insetto della famiglia delle api, delle vespe, che è arrivato in Europa, originario della Cina, originario dell'Asia, come anche le altre, fra l'altro. Vabbè, insomma, comunque è arrivato da... È stato trovato per la prima volta, è stato individuato il cipinide nei castagneti cuneesi, come si dice, di Cuneo, insomma, circa 15 anni fa. E è molto grave, ha messo veramente a rischio le produzioni di marroni. E poi c'è anche il fatto, naturalmente, che produrre marroni, cioè, diciamo, mancano le attrezzature perché c'è tutta una procedura particolare. Io non lo so, se abbiamo tempo, dalla regia, abbiamo tempo per spiegare un po'? Boh, sì, va bene. Comunque, why not? Why not? Allora, quindi, intanto, la differenza fra il marrone e la castagna, va bene? Sono due piante diverse che producono due frutti diversi. Il più pregiato, naturalmente, è il marrone, va bene? Il marrone... Sì. Come? I marron glacé, sì, tutti i derivati, tutte le cose vengono fatte con i marroni, perché... Lo spaccamento di marrone, Anita, su! Allora, comunque, diciamo, io vi faccio un po' le differenze del frutto, che è la cosa più pregiata, sì. Va bene, l'albero poi sono cazzi vostri. Ciao. Va bene, comunque, fondamentalmente, vi dico alcuni parametri, va bene? I marroni sono più grossi, va bene? Intanto, delle castagne, cioè hanno una forma... più ovoidale rispetto alle castagne, sono più grandi, e la buccia è diversa, la buccia del marrone è più fine, mentre la buccia del castagno è più grossa, più spessa. La cicatrice, se voi girate una castagna, sul fondo c'è una sorta di cicatrice, questa è diversa, la castagna ce l'ha tonda, il marrone ce l'ha invece circa rettangolare. E poi naturalmente l'utilizzo, va bene, perché le castagne vengono sì utilizzate per mangiare, ma appunto, come diceva Anita, le cose pregiate vengono fatte col marrone. Come il marrone può essere intero, fresco, quindi come lo fai te, Anita? Te di dove sei, scusa? Io sono di Tropea. Di Tropea, no, niente. Tropea. Ok, no. Tipo intervista, ti fai la domanda e gli avvicini. Ci sono, anche da noi abbiamo tanti castagneti. Lillo, oltre a essere un cuoco sopraffino, a questo punto anche un agronomo esperto e anche un intervistatore. E anche un intervistatore, esatto. Allora, non so voi in Calabria come li usate, però noi si possono usare freschi, nel senso che poi ci fai le ballotte, ci fai le bruciate. Bene, puoi farli secchi, si possono conservare una volta essiccate. Secchi. E poi soprattutto ci fai la farina di marroni, va bene? Ci sono varie procedure, io vi dirò solamente quella della farina di marroni. Perché? Perché è importante, nel senso che ci sono più procedure per fare la farina di marroni e il metodo artigianale consiste nel raccogliere le castagne, va bene? Soprattutto farle essiccare. Le castagne vengono essiccate all'interno di strutture che si chiamano nominati o metati, cioè metati o essiccatoi, semplicemente è la stessa cosa, va bene? Metati o essiccatoi, come le volete chiamare. Quindi queste ve la faccio breve, questi marroni vengono tenuti per circa 30-40 giorni con il fuoco acceso, va bene, sotto, stesi su un solaio e al piano di sotto appunto un fuoco acceso per circa 30-40 non giorni. Non sulla fiamma viva. No, no, assolutamente, è una fiamma lentissima, esatto. Lievissima, proprio che poi tiene il sapore, ecco, del marrone. Viene conservato, anzi viene esaltato, perché c'è a quel punto un po' del carbone, del fuoco, no? Della fumicata, del sapore. Esatto. Perché dico questo? Perché industrialmente voi trovate le farine che sono essiccate con altri metodi. Quindi se la raccolta dei marroni si fa a ottobre, solitamente la prima decina di ottobre si inizia la raccolta dei marroni, che poi si estende per tutto ottobre. La farina di marroni artigianale è pronta a dicembre, perché l'essiccatura è di 30 giorni. Se voi trovate la farina di marroni a ottobre, invece alla Hop, no, c'è qualcosa che non va. Assolutamente, nel senso, no, assolutamente no, evitatela. Non è buona quanto quella artigianale. Certo, l'altro giorno però non è neanche costosa quanto quella artigianale, perché attenzione, è un prodotto, diciamo, molto povero, dove le montagne italiane hanno vissuto per buona parte dell'anno con questa cosa qua, però ora è diventata invece una cosa molto ricercata, proprio per per quella storia che viene coltivata molto meno. Ma dicevi l'altro giorno che comunque dura la farina, no? Quindi sì, allora esatto. Voi, per esempio, io cosa faccio? Io a dicembre, anzi a novembre, vado dallo spacciatore di farina di castagne e prendo magari una barcata di farina di castagne che mi duri per tutto l'anno. E per conservarla io utilizzo questo metodo, che veniva utilizzato anticamente, cioè nelle campagne, lo metto in una pentola di coccio e la schiaccio fortissimo, deve essere tutta compressa la farina di marroni, di modo che non ci sia modo all'aria, non dare modo all'aria di penetrare. Okay, e vengono i vermetti e le farfalline, esatto. Bene, quindi poi, allora io ho fatto il castagnaccio, però si possono fare cose salate, si possono fare cose secche, possono fare ciambelloni, si possono fare i necci, si può fare la fattona, che è una polenta, ad esempio, fatta esclusivamente con la farina di castagno, non so se l'avete mai sentita, no. È una cosa sì, è molto buona. Fuori di testa. Mai. La fattona, bisogna essere dei gran cuochi per farla, però. Non lo so, quindi, diciamo, io vi ho detto il castagnaccio, fateci sapere. Una panoramica completa, direi, sul mondo dei marroni. Sul mondo dei marroni. E, quindi niente, io vi saluto con il pastillo sbirillo. E ti ringraziamo molto. Faccio il detto del giorno? Vai, già che siamo qui, fai detto dai, senza sigla, esatto, nudo, fai anche senza, detto del giorno. Esatto, ci tengo a farlo perché è una cosa molto... cioè, oggi è un giorno veramente importante, no? Sapete bene che oggi è il 20 di marzo. Sì. E domani, domani è primavera, sì, esatto. Però, allora, mi ero scritto un paio di cose. Ma le perdute, l'ho perdute, probabilmente. Nel viaggio, arrivare qua. Allora, intanto mi è venuta la curiosità e ho cercato un po' un riepilogo del clima di questo inverno. Bene, un po' di dati. E ho scoperto che noi abbiamo fatto tutti i detti, la candelora, bla bla bla, bla bla bla. Benissimo. La candelora ci ha dato ragione, perché se non vi ricordate male, durante la candelora cosa faceva? Aspetta. Plombe plova. Per la santa candelora, se nevica o se plora, esatto. Dall'inverno siamo fuori. Ecco. Se c'è solo il cielo siamo a me. Ok, per la candelora, se non vi ricordate male, pioveva o addirittura nevicava. Il che prevedeva la fine dell'inverno. Effettivamente... io ho preso dei dati meteorologici, scientifici, che sono stati confrontati con il periodo 1981-2010, va bene? Mamma mia. Quindi i dati di quest'anno confrontati con la media di questi 30 anni, di questi 29 anni, 30 anni, è venuto fuori che intanto questo inverno qua ha, diciamo, interrotto una scia di inverni molto caldi. Va bene, dal circa del 2013 c'erano inverni molto caldi, sopra la media di questi 81-2010. Quindi, in media c'è stato dicembre, che è stato all'incirca come gli altri anni, va bene? Quindi più 0,1 gradi di media. C'è stato gennaio, che invece è stato molto freddo, meno 1,5 gradi rispetto al trentennio. Febbraio, invece, è stato eccezionalmente caldo, più 2,5 gradi. Ecco qua che l'inverno è finito, come giustamente ci ha detto la candelora. Niente, le temperature, vi ho detto, sono state più fredde, c'è stato però un grosso deficit di pioggia. Va bene. Ma quindi il detto è quello del... No, okay, ci arrivo. Okay, scusa, ci arrivo. Se mi perso un pezzo. Sì, qui ci arrivo perché questo qua era solamente per darvi la prova della nostra scientificità, nonostante facciamo cazzoni, però comunque, visti, ci siamo. Ma c'è una guerra, hai preparato un sacco di dati oggi. Sì, un sacco di dati. Allora, il proverbio di oggi, che se non mi sbaglio oggi è 20 marzo, è Santa... Cazzo, me l'ho scritto, aspetta. Santa Alessandra Martire, va bene, dice: marzo marzotto, il giorno è lungo quanto la notte. Non fa rima, però. Non fa rima, però io l'ho trovato così. Allora, da questo io sono andato a cercarmi, per esempio, la data di alba e tramonto. Stamane ha fatto alba alle 6,17 e tramonto alle 18,28, quindi esattamente 12 ore e 11 minuti. Probabilmente, diciamo, è quanto di più vicino effettivamente all'eguagliarsi della notte e del giorno. Attenzione, la luna sorgerà alle 0:12 e tramonterà alle 10:55. Luna calante, ultimo quarto. Va bene? Vi dico tutte queste cose perché... Esatto, vi dico tutte queste cose perché Anita, giustamente, cioè, che lei è veloce, cioè, mi ha preceduto. Oggi 20, diciamo, si entra nella primavera e tutte queste cose qua, però fondamentalmente, cioè, l'evento grosso è che oggi è l'equinozio di primavera. L'equinozio di primavera, diciamo, è una data simbolo, è una data che è un po' la svolta. Perché? Allora, intanto l'equinozio cosa vuol dire? Sapete cosa vuol dire l'equinozio, vero? Che l'asse terrestre, che normalmente è inclinato di circa 23,27 gradi, voglio fare lo sborone, circa una sega, 23,27 gradi, oggi per l'appunto è perfettamente dritto. Oggi, durante l'equinozio di primavera e l'equinozio di autunno, è perfettamente dritto e quindi i raggi del sole arrivano esattamente uguali in tutte le parti del mondo illuminato, va bene? Sì, sì. Questo uno dice, vabbè, cazzo vorrà dire, vabbè, no, vabbè. Comporta diverse cose, il passaggio di stagioni, naturalmente, quindi al variare dell'illuminazione, no? E, per esempio, anche l'aggressività della luce, dei raggi solari, quindi la protezione e la non protezione cutanea. E è una data, insomma, è una cosa comunque che, al di là di questo, è una data simbolica, no? Simboleggia un po' il rinnovamento, la nuova vita. E infatti, l'essere sopravvissuti all'inverno. Infatti, molte diciamo, è occasione di festa in moltissime civiltà, dall'antichità fin dalla Mesopotamia, i persiani, il capodanno iraniano, se non mi sbaglio, si svolge in questi giorni. Ma così anche come le nostre feste, no? La Pasqua, un po', se ci pensate, la Pasqua, se non mi sbaglio, è la morte e la resurrezione, no? di Gesù, sì. Jesus Christ. Sì. Sì. E per l'appunto la Pasqua, diciamo, non può accadere prima di ora, sì. Cioè, i limiti estremi della Pasqua sono fra il 22 e il 22 marzo e il 25 aprile. Okay. E quindi, diciamo, anche in questo caso, vedi, anche la Chiesa Cattolica ha un po' preso questo momento come per dire, no, cioè la rinascita annuale, la resurrezione. Così come altre cose, me l'ho scritto in Mesopotamia, me l'ho scritto alcuni capodanni, per esempio, sono fatti all'incirca in questi giorni. Quindi niente, i fricchettoni fanno festa di solito, visto, quando cambia il sole, cambia la luna. Certo, è vero. E le varie nelle montagne, i vari riti pagani, tante persone nude solitamente. Esatto. In queste occasioni mi insegna a piedi scalzi, esattamente, esattamente. Certo, falò. Va bene, quindi niente, io vi lascio con questo. Grazie. Il giorno o la notte, viva l'equinozio e viva Radio Wombat. E viva Radio Wombat. Lilo, sei stato meraviglioso e iperscientifico. Grazie. Ho fatto una corsa per venire qui a raccontare tutte queste cose, non vi potete immaginare. Bellissimo, è stato bellissimo, infatti. Noi, in tutto questo, lasciamo i nostri ascoltatori senza un'ultima canzone? Penso di sì. Oppure la facciamo? Brevissima. Una brevissima canzone, rientriamo e vi salutiamo. Put a very boy, we'll show these fascists what a couple of hillbillies can do. Tell you fascists, you may be surprised. People in this world are getting organized. You're bound to lose, you fascists bound to lose. Woo! All you fascists bound to lose. I said, all you fascists bound to lose. Yes, all. Rieccoci qua. Buonasera, benvenuti alla 17. Sì. Allora, senti, ha chiamato la facoltà di agraria e chiede se Lillo può andare a fare il docente. Lo mandiamo? Sì. No, lo teniamo per noi. Perfetto. No, no, lo faccio da qui il docente, ragazzi. Esatto. No, non cominciamo a allargarci. Gli rispondiamo e ascoltino Radio Wombat, esatto. Se vogliono informarsi. Oppure possono anche scaricare il podcast. Ecco, esatto. E se hanno dubbi, scrivono. Posta Wombat. @insiberia.net. Ovvio, non è che si può fare cose preferenziali. No, basta. Università. Fanculo, no, università. Fanculo, proprio. Gli ultimi due appuntamenti che volevamo ricordare della settimana. Allora, vi ricordiamo sicuramente sempre il 22, Fuoco ai Scie, un'iniziativa in Via del Leone, riguardante tutto il sistema di accoglienza dei migranti, quindi non solo i Scie. Sì, hotspot, Cara, esatto. Sprar, eccetera, eccetera. Cara, Sprar. E quindi ci sarà una discussione proprio... Una discussione, è un evento che parla proprio di questo. Okay. E approfondisce. Ok. Quindi se siete interessati, alle ore... All'occupazione Via Leone, dalle 18, dalle 19. Dalle 19 fino alle 22. Ok, e poi volevamo ricordare anche che domani ci sarà alle 18, domani martedì alle 18, un'altra assemblea di Ribellarti, sempre in Viale Corsica, e quindi andare. Vi invitiamo assolutamente, come sempre, a partecipare. E a questo punto ci potremo anche salutare, direi. Assolutamente, vi lasciamo alla revancia che però è tra un bel po'. Sì, tra un paio d'ore, avete il tempo di mangiare, di fare un castagnaccio. e noi invece alle ci alle 22. Sentiamo. Scusa, ok, alle 22. Avete tempo anche di fare un cecchino, un caffè, dopo cena. E ci risentiamo lunedì prossimo qui su Fuoco alle Polveri. Sì, scaricate il podcast e passate ai vostri familiari, soprattutto. Wombat. Radio Bomba. Play for-